potete seguirci lì o sui nostri canali social, in cui comunque aggiorneremo tutte le tappe. E allora ricordiamo il documentario L'Unione fa la forza di Fabio Leli al cinema da giovedì 2 maggio 2019. Fabio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi per lo spazio. A presto. Adele Tulli, regista del documentario Normal, al cinema da giovedì 2 maggio 2019. Adele, ben trovata. Ciao Federico, come stai? Bene, bene. Stavo, come ti dicevo, sì, sono passati diversi anni dall'ultima volta che ti abbiamo avuto in trasmissione. È un piacere. Eh sì, anche per me. Allora, lo raccontiamo questo lavoro? Ci provo, perché in realtà è un progetto che è nato come ricerca di dottorato e quindi insomma è durato un po' di tempo, diciamo, tutto il percorso, però l'idea era provare a usare il documentario per ragionare e riflettere sulla costruzione sociale dei generi, cioè su come in qualche modo il genere e le norme legate al genere definiscono le nostre identità, definiscono chi siamo da quando nasciamo attraverso la nostra crescita, diciamo. Questo è il ragionamento del film, e lo faccio, diciamo, insomma, il film non ha un racconto lineare, nel senso che non ha un protagonista, non sviluppa una storia, ma mette insieme una serie di situazioni come in un mosaico, quindi come una specie di caleidoscopio di situazioni diverse in cui la riflessione di fondo è questa su come il genere un po' definisce il nostro agire quotidiano. Com'è stato il passaggio dal dottorato al documentario? Bella domanda. In realtà il dottorato l'ho fatto in Inghilterra, e lì si fa molto questa cosa del teorico pratico, si chiama, no? Quindi in realtà l'idea del film era già parte del processo di ricerca, quindi comunque non c'è stato un passaggio netto, diciamo, tra la parte teorica e la parte pratica, ma è in qualche modo l'una informa l'altra tutto il tempo, un po' un esercizio di funambolismo tra i due aspetti, tra le due dimensioni espressive. Però diciamo che la ricerca sul film è stata parte proprio anche della ricerca di dottorato, e la ricerca proprio preliminare da cui poi ho sviluppato il progetto del film è stato un lungo viaggio, un po' ovviamente sulle orme di Pasolini, di Comizi d'amore, no? Quando si trattano questi temi, poi ovviamente il riferimento è immediato, viaggiando per l'Italia però con questa piattaforma di car sharing in cui tu puoi prenotare dei viaggi con degli sconosciuti, no? E quindi l'idea è stata, cioè praticamente appunto, sì, ho viaggiato in lungo e largo con persone sconosciute, attraverso questi viaggi facevo delle lunghe conversazioni poi registrate su questi temi in cui ci si confrontava su quanto le aspettative della società, no? Influenzano i comportamenti, desideri, identità, ruoli, eccetera, nel nostro quotidiano, e da lì poi è nato il film, diciamo. Oh, facevi riferimento a Pasolini, da quei tempi ne sono successe di cose, è cambiata parecchio anche la nostra società, sociologicamente parlando. Sì, non sai mai, è un sì un po' incerto, però sì, no, certamente è cambiata, per fortuna molte cose sono cambiate, poi ci sono sempre delle sacche di resistenza, ovviamente, o dei passi avanti e poi due indietro, è sempre un po' un gioco dell'oca, però sì, è cambiata, ma in realtà poi io non vado nel film proprio nello specifico ad indagare questioni di attualità, sì, ma proprio più una riflessione più ampia su cosa vuol dire doversi confrontare con le aspettative della società, le norme, no, le cerimonie sociali, in qualche modo ciò che è considerato normale, cosa implica questo confrontarsi, no? Con cosa dobbiamo negoziare ogni giorno, diciamo, per stare al passo con quello che ci si aspetta, ecco, da noi. Questa è un po' l'idea. E che bilancio ne trai al termine di questa ricerca, di questo viaggio? Su come siamo messi? Anche, sì. Ma guarda, in realtà il bilancio mio rispetto al percorso del film e ai ragionamenti che ne sono usciti anche a livello personale è più cioè più riguarda più l'aspetto di empatia verso le fragilità umane, no? Nel senso la difficoltà. Quello che mi interessa poi nel film non sono tanto e troppo gli stereotipi quotidiani sul genere, ma piuttosto quanta fatica facciamo ogni giorno nel dover in qualche modo fare parte di un sistema, di un meccanismo. Quindi a me interessano proprio le fragilità, le contraddizioni, la difficoltà quotidiana, diciamo, di doversi, no? Di dover performare, ecco, un ruolo, dover mettere in scena in qualche modo un ruolo. Quindi quello, da un punto di vista mio personale, è l'interesse, quello che mi ha, insomma, poi fatto ragionare tutto, anche su cui ho scritto la tesi, diciamo, poi del dottorato. Però come siamo messi, non ti so dire, guarda, sono periodi tosti, quindi non riesco a essere molto positiva in questo momento, ma guardo alle resistenze e alle piazze, a quello che muovono, per esempio Verona, no? Guardiamo alle piazze e non al resto, ecco. E però è anche vero che tu hai la possibilità di un occhio più distaccato, lavorando anche in Inghilterra, trovi delle similitudini nelle due società rispetto proprio alle questioni di genere e di autorappresentazione? È interessante questa domanda, perché il film è molto italiano, ovviamente è tutto girato in Italia, però ho avuto anche delle prime estere, e questa domanda un po' è stata posta rispetto al film anche, no? Quanto poteva comunicare a un pubblico non italiano e quanto il pubblico italiano potesse ritrovarsi con alcune dinamiche. E effettivamente è vero che ogni paese ha poi, come dire, no? La sua peculiarità e il suo taglio rispetto a dinamiche sociali e rituali comuni, però è anche vero che alcune tematiche più ampie, per esempio comunque un approccio binario sul genere e una forte divisione in qualche modo della società rispetto a alcune, no, norme, aspettative per un genere e per l'altro, sono però poi appunto non hanno confini, sono abbastanza globali, e quindi su questa cosa anche un pubblico estero si è ritrovato abbastanza vicino, insomma ho avuto un riscontro sia in Germania quando abbiamo presentato il film a Berlino, sia in Danimarca, per dire che dovrebbe essere, insomma, un altro mondo da quel punto di vista. Ho avuto un sacco di riscontri rispetto al fatto che la riflessione di fondo del film poi arriva. Sicuramente ci sono delle differenze, ci sono anche delle differenze non solo di costume e di società, ma anche proprio di leggi, e quello poi alla fine conta, nel senso, poi alla fine se puoi adottare o non puoi adottare, se ci stanno delle quote o non ci sono, poi la differenza la fa. Che distribuzione sarà? Ho visto che ci saranno due appuntamenti romani per quanto riguarda il Nuovo Cinema Aquila. Il Nuovo Cinema Aquila è in programmazione dal 2 maggio, quindi più passa parola c'è, più ci rimane, insomma, al Cinema Aquila si trova dal 2 maggio. E poi la distribuzione la gestisce l'Istituto Luce, che è anche coproduttore del film, e stiamo uscendo anche a Milano, al Cinemino, sarà in sala, e a Torino, e a Genova, Bologna, insomma, in realtà se sulla pagina Facebook del film si trovano anche tutte le uscite, non sono poche, insomma, sono molto contenta. Saremo a Torino di nuovo, e insomma, cominciamo questo piccolo tour dal 2 maggio e io mi sposterò in varie di queste città a presentarlo. In chiusura, la scelta di questo titolo? È un po' provocatoria, un po', diciamo così, fondamentale, perché poi la riflessione centrale del film, appunto, al di là delle norme di genere nello specifico, è proprio su che cos'è che viene considerato normale dalla società e anche un po' osservato attraverso delle prospettive a volte spiazzanti che ce lo fanno un po' questionare, insomma, ci fanno riflettere su questa idea di normalità. Allora, ricordiamo il film Normal al cinema da giovedì 2 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Adele Tulli. Grazie. Un abbraccio, mille, un in bocca al lupo. Ciao. E alla prossima. Speriamo prima di tutti questi anni. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.

di molti paesi europei di andare all'estero, di trovare un lavoro migliore in un momento difficile per l'economia di molti paesi, insomma. Che cosa succede? Che nel momento in cui si trova a lavorare alla cima di questa enorme statua, cade di sotto e rischia di morire. In realtà viene salvato, ma questo comporta, diciamo, un trapianto di faccia, un difficilissimo intervento che è riuscito, per cui Jacek riesce a salvare la vita, ma allo stesso tempo non ha più la faccia di prima. Le conseguenze di questo, insomma, cambiamento enorme saranno purtroppo molto drammatiche, nel senso che lo faranno vedere in una maniera completamente diversa da prima da parte dei suoi concittadini e anche da parte della sua fidanzata. Quindi lui farà una grande difficoltà per recuperare una vita sociale e degli affetti. Ovviamente gli esiti sono poco prevedibili, essendo un film che ha diverse svolte narrative, però al centro un tema forte, un tema forte è una grande metafora, insomma, è la metafora del volto, che è una metafora molto utilizzata nel cinema, è un po' un pretesto per la regista per parlare, per guardare il suo paese con altri occhi, con un altro volto. Quindi è un film molto raffinato che in qualche modo utilizza questo escamotage narrativo per parlare del proprio paese, ma per parlare di una condizione che affligge, ai noi, l'Europa intera in questo momento. Quindi ed è un film appunto sullo sguardo, innanzitutto, come lo sono poi la maggior parte dei film d'autore. Sceglie un registro sempre in bilico sul grottesco, che è un'arma per fare una satira sulla società, soprattutto per quanto riguarda la provincia e il mondo cattolico, mi pare. Assolutamente, sì. Infatti io ho detto forse a proposito che è un film drammatico, ma in realtà il film ha diversi registri. Sì. Sicuramente oltre il dramma c'è il registro grottesco, che è un registro tipico di una cinematografia, diciamo, nord europea. Adesso non, insomma, possiamo comodamente citare anche Kaurismäki, ma voglio dire, il film ha, come dire, è un film molto personale, ecco, quindi pesca tra diverse, diciamo, esperienze registiche, esperienze filmiche, e crea una cifra completamente personale, ma sicuramente il grottesco, a mio modo di vedere, è un espediente che la regista usa per cercare di stemperare un po' la drammaticità della storia e cercare anche appunto di utilizzare questo sguardo particolare per descrivere la situazione del proprio paese. Di questa regista cos'altro sappiamo? Ma è una regista molto apprezzata che ha partecipato più di una volta al Festival di Berlino, vincendo appunto con questo film il Gran Premio della Giuria, quindi è una regista nel suo paese molto importante dal punto di vista autoriale, però ha un curriculum di tutto rispetto anche appunto sul cinema internazionale. Aspettiamo con ansia il suo prossimo film, visto che secondo me i tempi sono maturi per probabilmente sarà il prossimo Festival di Berlino, ma insomma mi sembra una regista che ha in questo momento un grande avvenire davanti a sé, insomma, perché ha trovato, ripeto, una cifra molto personale per esprimersi, e quindi fa un cinema assolutamente interessante e moderno. Tra le altre cose, dico una curiosità, perché cioè, così, una cosa che mi ha subito colpito guardando questo film: utilizza una famosa canzone italiana dance degli anni 90, che è una canzone di Gigi D'Agostino, che si chiama L'amour du jour, che insomma è di fatto per uno spettatore italiano una cosa assolutamente curiosa, insomma, per una regista così lontana da noi. E allora ricordiamo il film Un'altra vita, Mag, di Malgorzata Zumowska, al cinema da mercoledì 24 aprile 2019 con BIM Distribuzione e Movies Inspired. Un saluto e un ringraziamento a Damiano Ricci. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Damiano. Crepi, un saluto anche a te e complimenti, perché per due volte hai detto bene il nome della regista e io sono riuscito a non dirlo mai, ecco, cioè, quindi siamo stati bravi entrambi, secondo me. Un saluto a tutti e buon divertimento al cinema. Alla prossima, ciao. Ciao. Con Sabrina Baracetti, direttrice della 21esima edizione del Far East Film Festival a Udine, teatro nuovo e visionario, dal 26 aprile al 4 maggio 2019. Sabrina, ben trovata.

insomma, mio maestro, fondatore del DAMS, critico, storico del cinema. Lui è diventato un regista ormai piuttosto noto perché ha fatto dei film anche mainstream, commedia, però ha fatto dei documentari e delle docufiction piuttosto impegnative. E poi segnalo anche l'anteprima romana di un film di un mio collaboratore che si chiama Cristian Carmosino, che ha fatto un film molto interessante, anche se molto sperimentale, molto difficile, che si chiama Kobarid, che sarebbe Caporetto in sloveno, quindi dedicato alla tragedia di Caporetto, un film sulle lettere dei soldati italiani durante la disfatta di Caporetto. Insomma, quindi ce n'è tanto, ce n'è per tutti. Gli orari si inizia dalle 3:30 in poi, 3:30-4 a secondo delle giornate, quindi primo pomeriggio i cortometraggi, secondo pomeriggio incontri, anteprime, tavole rotonde e poi la sera soprattutto il film con l'incontro con l'autore principale. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? C'è anche un mio blog, Vito Zagarrio, trovate tutto. Comunque Roma Telefilm Festival, c'è un sito, c'è il riferimento del Teatro Palladium, quindi tra Teatro Palladium, Roma Telefilm Festival, Vito Zagarrio, trovate tutte le informazioni necessarie. E allora ricordiamo la 14ª edizione del Roma Telefilm Festival al Teatro Palladium dal 6 al 12 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore Vito Zagarrio. Un abbraccio. Venite, passate parola, fatelo sapere, perché poi sono festival che si fanno con finanziamenti minimi, quasi a costo zero, con l'università, però con la bellezza di questo Teatro Palladium, che è un piccolo gioiello dell'Università di Roma 3, che io voglio valorizzare anche sul settore cinema. Va bene? Vi aspetto. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie anche alla radio, grazie a voi, ciao. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB per parlare delle novità del mese. Paco, ben trovato. Buongiorno a tutti e tutti. Che succede? Vi raccontiamo un po' di tutte le novità del mese, perché come avete visto sono mesi molto densi, nel senso che è da gennaio che stiamo avendo molte acquisizioni di vario tipo, tra l'altro, e quindi la cosa ci rende molto felici proprio perché fa parte, insomma, del ragionamento che cerchiamo di portare avanti ogni giorno. Sicuramente tre film su tutti vi segnalo. Il primo in assoluto è Il passato al mio bastone, che continua a portare avanti l'acquisizione della gigantesca filmografia di Antonio Resta e Flavia Mastrella. Il passato al mio bastone è un documentario con l'intervento di diverse personalità, tra cui il nostro carissimo Enrico Ghezzi, che racconta in particolar modo tutto quello che è la vasta produzione di Antonio e Flavia degli anni 90, quindi parlo soprattutto dei famosi cortometraggi bianco e nero che andavano anche in onda di notte su Rai 3. Ed è un documentario molto bello, non solo per come è fatto, perché ovviamente è fatto a più mani anche con Antonio e Flavia, quindi è un modo molto particolare di raccontare, ma anche perché racconta proprio quello che è stata la loro produzione di cortometraggi, che ha dato un po' il via a tutta la loro carriera all'inizio degli anni 90, quindi è sicuramente un altro passo importante nella direzione che da ormai un po' di mesi abbiamo preso, cioè di trasformare la sezione a loro dedicata su OpenDDB come teca digitale che raccolga piano piano tutte le loro opere. Tra l'altro anche a maggio avremo delle nuove acquisizioni, ma poi ci sentiremo il prossimo mese per le novità sempre con Antonio e Flavia. Poi vi segnalo altri due film che abbiamo acquisito di recente, molto diversi ma molto interessanti entrambi. Uno è Transumanza Tour, che è un film che l'anno scorso fece degli ottimi numeri di distribuzione in termini soprattutto di proiezioni di sala, e racconta tutto per il fenomeno del woofing in Italia. Il woofing, per chi non lo sapesse, è quel nuovo, ormai c'è da un po' di anni, il fenomeno di compartecipazione degli ambienti rurali dove anche attraverso scambi culturali internazionali si invitano spesso anche realtà collettive e quant'altro dall'estero per partecipare a tutto quello che è il processo di produzione agricola, soprattutto per quanto riguarda quel tipo di nuove esperienze agricole del basso, che l'Italia per fortuna ormai è piena, quindi parliamo di biologico, di attività comunitarie e quant'altro. Ed è un film che molto particolare, che però tocca tutto un tema che noi non avevamo ancora, diciamo, affrontato sulla piattaforma. Il terzo, ma non meno importante, invece è Vita Nova, un film che non è uscito quest'anno, è uscito quasi tipo, 2 anni e mezzo fa, al Torino Film Festival, di Danilo Monte e Laura D'Amore, ed è un film che ci tenevamo molto ad avere in catalogo, non solo perché prosegue quel lavoro di catalogazione dell'autore Danilo Monte, che è un autore indipendente molto importante per il nostro catalogo, che è presente con altri 5-8 punti fin dai primi passi di OpenBBB, ma anche perché tocca tutto il tema della cosiddetta procreazione medicale assistita, che è un tema che non solo sempre più urgente, ma soprattutto un tema dove a livello di documentarismo c'è molto poco in Italia. È un tema molto urgente perché sappiamo benissimo tutti quanto anche le statistiche nazionali stiano dimostrando che si sta lentamente emergendo un problema relativo anche alla fertilità delle persone, quindi siamo in un paese dove continuano a raccontarci che esiste un solo modo di famiglia, però poi concretamente all'atto pratico questa famiglia non ce la fanno mettere in piedi, qualsiasi essa sia, e spesso, se ci pensate, c'è anche un intrinseco legame con la nostra precarietà esistenziale. Non è che non facciamo figli perché improvvisamente ci siamo dimenticati come si fanno, forse non facciamo figli spesso perché non abbiamo le condizioni economiche per riuscire a mantenere dei figli. Quindi è un film che noi volevamo assolutamente avere in catalogo e finalmente è arrivato, disponibile ovviamente on demand come tutti gli altri film. E poi invece vi segnalo quest'ultima cosa che è pubblicata sul nostro blog di OpenDDB, ma che fa parte un po' di tutto il panorama produttivo di SMK, quindi della nostra casa di produzione. Il nostro buon Claudio Cadei, già compositore delle musiche di The Harvest 2 anni fa, ha scritto, musicato e realizzato il videoclip di questo brano che si chiama Controcorrente, un brano che trovate in streaming gratuito sul blog di OpenDDB, appunto, come vi dicevo, ma che vuole essere uno strumento, assieme a tanti altri per fortuna, di sostegno alla raccolta fondi di Mediterranea Saving Humans, quindi non solo il brano, diciamo, attraverso chiaramente un escamotage musicale narrativo tocca i temi dell'accoglienza, tocca il tema dell'arrivo dei migranti attraverso il mare. Il videoclip è stato girato all'isola delle Correnti in Sicilia, alla punta meridionale della Sicilia, con il supporto di Frame Off, un altro dei collettivi di produzione con cui lavoriamo da tanti anni ormai, ma ovviamente torna in auge quel ragionamento molto semplice, ma di cui abbiamo sempre bisogno, cioè l'arte in certi momenti storici, l'artista, l'arte e il compositore hanno anche una responsabilità sociale, e questo è uno di quei momenti, ovvero costruire e scrivere un brano musicale che possa aiutare il percorso di raccolta fondi dal basso di Mediterranea. Fa parte anche questo di una presa di responsabilità che oggi è molto importante vista la situazione che stiamo vivendo. Ognuno lo deve fare, lo può fare con i propri strumenti, un musicista lo fa con la musica, un documentarista lo fa con il cinema, però siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo e siamo molto contenti di questa piccola operazione che abbiamo fatto, non solo per il lavoro di squadra con tanti collettivi che c'è stato dietro, ma anche proprio perché poi è finalizzata alla raccolta fondi che sta avvenendo già da diversi mesi per sostenere l'attività di Mediterranea. E questo è, diciamo, il nostro piccolo contributo a questa vicenda, a questa lotta, e siamo contenti di fare la nostra parte. Allora Paco, io ti abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci per le prossime news. Viva il lupo. Ciao. A presto. Con Sabina Pazzi, curatrice di una serie di appuntamenti cinematografici dal titolo Regia alle donne, a Roma, la Casa Internazionale delle Donne, dal 6 marzo al 21 maggio 2019. Sabina, ben trovata.